delle conseguenze assolutamente gravi, alcune delle quali irreversibili, perché ecco, come certamente comprenderemo se avremo la pazienza di seguire questo itinerario, che comunque più o meno dovrebbe essere noto, insomma, ad una fede cattolica che sia degno di questo nome. Certamente l'approfondiremo e cercheremo di coglierne gli elementi più importanti. La volta scorsa abbiamo un pochino introdotto il tema, abbiamo visto, cominciato un attimo a entrare nel grosso problema della morte, che cominceremo poi ad affrontare questa sera in maniera dettagliata. E possiamo riprendere appunto il discorso, ricapitolando, che la morte segna il passaggio definitivo dell'uomo da questa all'altra dimensione, nonché il momento della verifica sulla sua vita, quello che, come vedremo, la Chiesa chiama il giudizio particolare. Un momento molto molto importante. E a cui tutti andiamo inesorabilmente incontro. Momento in cui non voglio anticipare i tempi, però comprenderemo cosa abbiamo fatto dell'anima che il Signore ci ha affidato. Tanto per introdurre le parabole dei talenti, ma più ancora che dei talenti della mina, no? Che tutti quanti ricevono una mina, non chi uno, chi due, chi cinque talenti, no? I commentatori dicono: perché tutti quanti una mina e poi chi la porta moltiplicata per 10, per 5, chi la mette nel fazzoletto? No, la mina che cos'è? È l'anima. Cari amici, noi siamo i custodi della nostra anima. Non ci sono altri custodi della nostra anima che non te stesso per la tua e me medesimo per la mia. Non ci sono altri custodi. La fine che fa la tua anima dipende da te, e la fine che fa la mia anima dipende da me. Attenzione che la nostra anima non si identifica né con la nostra intelligenza né con la nostra volontà. Io adesso sto parlando perché sono cosciente, si spera che ci abbia un'intelligenza che funziona, quindi che stia dicendo delle cose sensate, e parlo perché voglio parlare. Ho pensato, dopo certamente averci pregato, di fare questo ciclo di catechesi, quindi l'ha iniziato, si tiene la diretta lunedì sera alle 21:30, adesso sono le 21:40, quindi da qualche minuto è cominciata questa catechesi, perché ho voluto. Ma la mia anima è qualcosa di più grande di quello che sto facendo adesso. È qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di spettacolare. Certo, le mie facoltà fanno parte come facoltà della mia anima, ma non sono la mia anima. L'anima stessa è per noi un mistero. Tu ed io non conosciamo bene la nostra anima. E qui, come sempre faccio, rimandiamo un pochino tra un ciclo di catechesi e l'altra. Ci aiuterà a conoscere un po' meglio la nostra anima, per esempio, e anche tutta quanta una serie di potenzialità immense, di cui qui su questa terra non ne usiamo praticamente nessuna, il ciclo di catechesi dedicato a Tenera Amata, che sta già producendo grandi reazioni, grandi entusiasmi. E poi, se vi dico, insomma, alcune cose che mi stanno arrivando veramente anche, cioè, da parte, insomma, di volontà umane, che proprio che non stanno molto ben sintonizzate, veramente, delle volte proprio. Vabbè, le lasciamo aperte. Il giudizio particolare apre tre vie: il purgatorio, il paradiso e l'inferno. Di fatto, il paradiso significa aver raggiunto l'obiettivo della santità. Abbiamo visto anche la volta scorsa che peccato in ebraico, attat, significa fallire il bersaglio. Se vogliamo preferire, insomma, il Cardinal Petrocchi ci diceva sempre a noi che nel giudizio avremo il confronto con come Dio aveva pensato la nostra vita e come la nostra vita è andata. Se c'è coincidenza perfetta, siamo diventati santi e andiamo in paradiso. Se c'è coincidenza parziale, non siamo diventati grandi santi, andremo in purgatorio. E se c'è completamente difformità, cioè quello che aveva pensato Dio è una cosa e ho fatto un'altra, arriviamoci da soli. Quindi, paradiso è centrale il bersaglio, purgatorio è, vabbè, tutto sommato. Avete visto, no, i bersagli come sono fatti, no? Centrare il bersaglio vuol dire che tu fai centro. Se stai dentro il bersaglio vuol dire che ti sei distaccato più o meno tanto dal centro, no? E se la freccia va vuota è fallito il bersaglio. Se esce fuori dall'obiettivo, no? E lì so guai, come vedremo a suo tempo, dopo il giudizio particolare, game over. Non c'è possibilità di rimediare al fallimento. Prima sì, dopo no. Ora, tradizionalmente i novissimi, nei manuali di escatologia classica, adesso certo noi lo affrontiamo da un punto di vista catechetico, ma l'escatologia è una branca molto importante della teologia. Dico subito che questa classificazione oggi è non seguita dalla stragrande maggioranza dei teologi e delle facoltà, come dire, ufficiali. A mio avviso però rimane la forma migliore, anche perché ha le sue origini in San Tommaso d'Aquino, che distingueva i novissimi hominis, cioè la morte, il giudizio particolare, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, e da questi distinti poi, distinti da novissimi hominis, c'erano i novissimi mundi, che sono quelli che riguardano le realtà ultime, cioè la parusia, la risurrezione della carne, il giudizio universale e la vita del mondo che verrà. Quindi sono argomenti da tenere distinti e da affrontare dettagliatamente ciascuno per ciò che riguarda la propria, diciamo così, sfera di competenza. Ora, i nuovissimi hominis, appena accennato, morte, giudizio particolare, inferno, purgatorio, paradiso, e c'è anche la questione del limbo che io affronterò, perché il limbo, che non è, a differenza dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, un dogma di fede, ma è una dottrina comune antica, quindi è stato liquidato negli ultimi anni. Io prima di come dire, di sdoganare questa liquidazione ci penserei bene, perché ci sono tutta quanta una serie di ottime motivazioni, come vedremo, per pensare che il limbo esiste come. Altro problema è l'eternità del limbo, che era addirittura affermata anche da San Tommaso, ma su cui diversi autori e anche diverse rivelazioni private non concordano, e non concordo neanche io sull'eternità del limbo. Però un conto è rivedere un po' la dottrina sul limbo, un conto è dire non ne parliamo più perché probabilmente non esiste. Io che non esista, ho molti dubbi. Questa è una materia, vi dico subito, libera, d'accordo, perché non essendo un dogma di fede, non si può dire che chi lo nega è eretico, però essendo una dottrina comune, chi lo nega, secondo i canoni classici di giudicare questa cosa, anche perché del limbo si parlava esplicitamente, per esempio nel Catechismo di San Pio X, adesso non se ne parla più, è scomparso dal nuovo Catechismo, con quelle cose, no? Quando su una cosa non si è più tanto sicure, la fanno scomparire prima. Io prima di continuare queste, come dire, questi licenziamenti e questi posizionamenti nei dimenticatoi di tante cose, io ci andrei molto cauto, molto cauto. Questa mania degli ultimi 60-70 anni, mania un po' che sa un po' di modernismo, non vorrei sbagliarmi, però l'idea, insomma, che tutto quello che è antico è, solo per il fatto che è antico, già sospetta di muffa, già puzza di muffa, secondo qualcuno. Quindi prima ce lo sbarazziamo e ce lo togliamo dai piedi, meglio è. Io che questo sia, insomma, un modo di procedere consono e corretto, sempre nutrito, e più tempo passa, più aumentano, molti dubbi, molti dubbi. E, proprio in coscienza non mi sento assolutamente autorizzato a procedere in questo modo. Se qualcuno vuole farlo, se ne assume la responsabilità davanti a Dio e anche davanti alla Chiesa e agli uomini, ma a me non sembra opportuno procedere in questo modo. Bene, detto questo, cominciamo a introdurre il tema della morte. La morte, la morte, la morte. La morte, la grande, come dire, la grande sconosciuta, in che senso? Se c'è una. Premesso che. Se c'è una cosa che sicuramente accadrà in futuro, sapete che nessuno di noi può prevedere il futuro, io non lo so domani sera a quest'ora che cosa starò facendo, no? E nemmeno se ci sarò, perché può essere pure che faccio, che muoio in diretta, mi prende un infarto, immaginate, no? Hanno cominciato a fare gesti strani, finisce la diretta, finita la diretta, d'accordo? Modo un po' traumatico per lasciare questo mondo, insomma, può darsi che il nostro Signore abbia pensato altre cose, quindi non possiamo sapere, io non posso sapere nulla del futuro. Se non succede niente, questa diretta finirà, domani sera a quest'ora non ci sono dirette, quindi forse starò facendo qualche altra cosa, non starò presumibilmente davanti al computer, dove invece starò mercoledì con l'incontro biblico e venerdì, se Dio vuole, con la terza puntata di Tenera Amata, no? Ma questo presumo che sia così. Ma non ne posso essere sicuro. Invece sono sicuro che un giorno o l'altro morirò. Questo è sicuro, questo qui. Non so quando, ma so che. Senza nessun dubbio. Eppure la morte, guardate, posizioni attuali nei confronti della morte, perché chiaramente questo è un ciclo di catechesi, quindi la catechesi serve a. Come dire, a provocare e anche a collocare chi ascolta, per far capire tu in quale area stai. Allora, sapete che un tempo c'erano i tabù sessuali, adesso questi li hanno distrutti tutti. Basta con i tabù, facciamo tutto quello che vogliamo. E poi ci sono i nuovi tabù, però. Adesso ci sono i nuovi tabù. Ah, il primo grande tabù, cioè tabù è una cosa di cui non si può parlare, no? Una volta di sesso non si poteva assolutamente parlare. Adesso di questo se ne straparla e si strafa, ma della morte non si può parlare. Se si parla della morte, in certi ambienti, per bene che va, parte qualche gesto apotropaico, d'accordo? Ma cioè, ci sono persone che non ne vogliono proprio sentire parlare, dimenticando l'antico adagio che era scritto a caratteri cubitali in certi monasteri, addirittura in qualche porta di qualche celletta, memento mori. C'è stata fatta anche dell'ironia in qualche nota pellicola umoristica, chiamiamola così, di commedia all'italiana, no? Ricordati che devi morire. La frase è molto importante perché capite, cioè condanna in maniera assoluta e inesorabile il considerare la morte come tabù, quindi non ci devo pensare e non ne devo parlare. Una volta questo era per le cose di Sesto, non ci devo pensare e non ne devo parlare. Adesso è diventato della morte. Agli ascoltatori il giudizio se è preferibile evitare di pensare o parlare delle cose di Sesto o di sorella morte corporale, che. Voi sapete che alcuni santi, tra cui il mio grande omonimo Leonardo da Porto Maurizio, ci avevano sulla scrivania, sono cose che adesso quando le vedono dicono, ma sono queste cose, il gusto dell'orrido, horror macabro. Ci avevano il teschio sulla scrivania. Leonardo da Porto Maurizio ce l'aveva, senza dubbio. Infatti è sempre rappresentato, anche dipinto, con questo teschio davanti a sé, no? Teschio e poi qualche flagello che si vedeva in sottofondo, tutte quante cose che cioè, oggi chiamano subito il 113. Immaginate se entrassero in una casa di qualche frate o di qualche prete e trovano il teschio e il flagello. 113 garantito seduta stante con qualche seduta di riabilitazione lunga, in qualche casa famiglia con un buon team di psicologi, insomma, a fare tutto quanto un programma riabilitativo, ci immaginiamo, no? Cioè, io scherzo perché per alleggerire un pochino la cosa, ma guardate che non è che siamo molto, molto distanti dal vero, nonostante che io stia ironizzando un po'. Questo per capire dove siamo arrivati, no? Quindi per alcuni è un tabù assoluto, o per altri è uno spauracchio assoluto. Quindi c'è la morte tabù e c'è la morte spauracchio, cioè il terrore della morte, la morte temuta come il male assoluto. È un po' diverso, perché chi la esorcizza in questo modo sciocco, quindi non ci pensa, si illude che non venga mai. Applicando un po' quella cretinata, quella è proprio una delle più grandi cretinate che sia stato detto nella storia da chi, tra l'altro, come dire, si vantava anche del titolo di filosofo, che era Epicuro. La più grande cretinata mai detta, no? Sapete che diceva Epicuro, fondatore dell'edonismo, no? Quindi di quelli che fanno coincidere la felicità con il godimento dei piaceri della vita. Per la cronaca, Vangelo, c'è scritto stamattina l'omelia per il settimanale di Padre Pio, Vangelo che sentiremo non domenica prossima, ma tra due monete, tra due domeniche. Il ricco e pullone e il povero Lazzaro, no? Quindi, classico Vangelo dove ti fa vedere la fine che fa, quello che ha fatto coincidere la propria felicità con il godimento di tutti quanti i piaceri della vita. Quindi abbagordi, banchetti, il Vangelo si limita a dire banchetti, però presumibilmente c'era anche altro, un po' come facevano i romani, no? Quindi c'erano i lauti banchetti e al termine del banchetto puntini puntini. Ecco, quindi però il Vangelo tra due domeniche sarà molto chiaro, no? Quindi Epicuro, che è il fondatore dell'edonismo, cioè edonismo significa piacere, edone in greco significa piacere. Edonismo significa ricerca sfrenata del piacere. In cosa consiste la felicità? Nel godimento di tutti quanti i piaceri possibili e immaginabili. Tutti. Ci sono varie rappresentanti in giro, cioè la stragrande maggioranza della gente oggi pensa questo, no? E quindi che cosa diceva? Goditi la vita, goditi tutti quanti i piaceri che vuoi. La morte non è un problema, perché fino a quando tu ci sei, la morte non c'è, e quando c'è la morte tu non ci sei più. La cosa è molto diffusa, eh? Pensate per esempio in televisione, le serie dove muore qualcuno. Cremazione e ceneri dispersi, i rituali delle dispersioni delle ceneri, no? Proprio la cremazione, l'ho già accennato la volta scorsa, di per sé è proprio un atto che non è detto che sia fatto con questa intenzione, ma di per sé è l'attestazione della credenza che, secondo qualcuno, dopo la morte non c'è nulla. D'accordo? E quindi, solo che c'è un piccolo problema: che dopo la morte ci sia qualcosa non si può dimostrare scientificamente, ma che Epicuro abbia detto una cretinata, sì. Perché il discorso è: quando io ci sono non c'è la morte, quando la morte c'è io non ci sono, non lo puoi applicare a un essere umano. Lo puoi applicare agli animali ragionevoli. Sono gli animali ragionevoli per i quali la morte non è un problema. Perché fino a quando ci sono la morte non c'è e quando arriva la morte non ci sono più. Ma il problema è che l'animale irragionevole non sa che deve morire, perché non ha l'anima. E non ha la ragione. Se un gatto o un cane va per strada e vede un cadavere di un gatto o di un cane, mica penserete che quello dice, questo è morto, Un giorno mi capiterà pure a me. No, l'annusa, probabilmente io non ci sto dentro la testa di un cane o di un gatto, probabilmente percepirà qualcosa di strano, ma quello che è certissimo, che sicuramente non fa questo tipo di processo, di ragionamento. E non sa che deve morire. Né sa, lo sappiamo noi, che i cani e i gatti campano 15 anni circa, massimo. I cavalli 30 e gli altri animali non sono molto competenti, quindi non mi avventuro, se no poi nei commenti mi tirano le orecchie, insomma, no? Quindi c'è la morte tabù, poi c'è la morte spauracchio. Quindi la morte spauracchio significa che bisogna temerla come il massimo male assoluto. E quindi che cosa fare quando quindi, allora, mentre per quanto riguarda la morte tabù non ne voglio proprio parlare, vuol dire che me la devo godere il più possibile. Quando la morte è uno spauracchio, significa che bisogna cercare di dilatarla il più possibile, cioè di dilazionarla. Quindi bisogna fare in modo che la vita umana diventi più lunga possibile, con la massima qualità della vita possibile. E qui entriamo tutte quante quella serie di fenomenologie di vario genere, alcune le abbiamo viste negli ultimi 2 anni e mezzo circa, d'accordo? Altre se ne sono viste, cioè pensiamo tutta quanta alla medicina borderline, tutte quante le problematiche connesse con l'accanimento terapeutico, no? Qui si applicano. Perché si fa l'accanimento terapeutico in certi casi? Perché poi, capito? Da un lato l'accanimento terapeutico e dall'altro l'eutanasia. Perché attenzione, la quale eutanasia, cioè sempre attenzione, perché noi dobbiamo fare attenzione, non dobbiamo semplicemente qualificare le condotte come buone o cattive. Certo che dobbiamo farlo, ma dobbiamo anche capire che tipo di visione dell'uomo, della vita e della morte c'è dietro certe scelte. Dietro l'accanimento terapeutico c'è appunto il fatto che la morte è la fine di tutto. E quindi, dato che tu c'hai soltanto questa vita, io devo cercare di prolungarti la vita il più a lungo possibile, perché il massimo male è la morte. Ma pensiamo anche qui, andiamo sulle provocazioni, la pena di morte. Tutto quanto il dibattito che ci sta adesso, insomma, che apre degli aspetti molto molto problematici. Ma perché la Chiesa, nella sua dottrina tradizionale, ha da sempre ammesso la pena di morte? In casi certamente limite, estremi. Tant'è vero, penso che lo sappiate, che quando c'era un condannato a morte, gli si mandava il sacerdote che se voleva poteva ricevere i sacramenti. Quindi c'era un accompagnamento del condannato a morte. Perché? Se la morte fosse il male assoluto, mai si potrebbe ammettere per nessun motivo la pena di morte. Ecco perché qui, capite, ci giochiamo delle. Ma per noi cattolici, credenti, la morte è il male assoluto? Punto interrogativo. E qui andiamo già alla terza dinamica. La morte è il male assoluto? È il male dei mali? Perché c'è chi non ci vuole pensare, c'è chi ci pensa essendone terrorizzato. C'è chi invece ci pensa, perché non ci può non pensare, e sa che c'è, ma come dire, rifiuta di prendere una di approfondire, cioè questa cosa c'è. E come mi relaziono di fronte a questo problema? Cosa c'è dopo? Ci sarà qualcosa? Non ci sarà? E quindi che cosa, come mi regolo prima? Ecco, poi ci sono anche la categoria, io la chiamerei degli illusi. Categoria anche questa purtroppo folta. Gli illusi sono quelli là che pensano: no, dopo la morte non è vero che non c'è niente, non è vero che finisce tutto, perché questa idea, se uno riflette un po', ripugna alla coscienza e al cuore dell'uomo. Non è possibile che con la morte finisca tutto. Allora, dopo la morte c'è sicuramente qualcosa. Oh, ma quel qualcosa, secondo questa posizione, la posizione degli illusi, è sicuramente una cosa bella. E, come dire, l'esito naturale della morte è che tu finisci finalmente di tribolare in questa vita, certo, lasciando tante cose belle, quindi comunque una sofferenza, ma dopo vai a stare meglio. Ma dopo vai a stare meglio. Oh, questa cosa qui oggi è enormemente diffusa tra quello che resta di certi cattolici e si sente sistematicamente voglio sperare di no, ma dice, facciamo così, non di rado, in certe prediche o in certe celebrazioni funebri. Pensate anche, pochi sanno che, per esempio, il colore liturgico nero non è stato del tutto abolito, perché per esempio alle esequie, anche oggi, si potrebbe usare il nero, non lo usa più quasi nessuno però. E se lo usi, vai subito a creare questioni perché... Oh, nel nero, che sono queste cose qui, insomma. Questa nostra mentalità moderna che non va a, che non deve urtare le sensibilità. Non deve urtare le sensibilità. Quest'altra prassi che adesso ormai è diventata una moda, guardate che le esequie sono proprio la cartina di tornasole di come la morte oggi è trattata purtroppo anche in certi ambienti ecclesiali. Proprio la cartina di tornasole. Una cosa che per quanto mi riguarda, insomma, ci sono... Pensiamo gli elogi funebri che vengono fatti, non tanto nelle omelie, ma dopo la comunione adesso ormai è diventata un'abitudine, funerale ci si siede e si cominciano a leggere in chiesa delle cose, insomma, che a volte non si possono proprio sentire. Cioè, degli elogi umani, come di caratteristiche delle singole persone. Allora, che ci sono due problemi. Primo, la Chiesa non è il luogo adatto per questo tipo di manifestazioni, concluse poi con gli applausi. Applausi di cosa? A parte che in Chiesa gli applausi non si fanno. Quindi la Chiesa non è il luogo adatto. La liturgia non è il luogo adatto, perché la liturgia non è finita dopo la comunione. Non è affatto finita, ci stanno i riti di benedizione della salma, c'è il commiato, il rito del commiato, c'è la benedizione. Quindi, come si fa a introdurre dentro la liturgia un elemento di questo genere? Tra l'altro, completamente impazzito, cioè, che c'è scritto dentro quelle letterine? E terzo, ma scusate, ma sono quelle le cose importanti quando una persona muore? La rievocazione di alcuni tratti molto umani, che, e questo lo dico da prete, per la persona defunta, quelle cose non valgono meno che niente, quelle sono completamente andate, quelle sicuramente sono completamente andate. Che la persona che passa attraverso la morte entra in un'altra dimensione. Per cui sentir dire quelle cose, io sono certo di questo che dico, alla persona defunta che vede quella cosa lì, gli dà fastidio. Io lo capisco, mi rendo perfettamente conto che le persone non lo capiscono. Infatti c'è modus e modus, ci sono diverse sacerdoti che, comprendendo che questa cosa qui non la si può allo stato attuale eliminare del tutto, almeno la fanno posporre a dopo la liturgia. Quindi si finisce la liturgia, si dà la benedizione, si esce e se proprio ci tieni sul sagrato davanti al feretro, fai tutte quante le commemorazioni se vuoi, se tanto ci tieni. Tanto con il livello, come dire, di fede quasi zero della stragrande maggioranza delle persone che ancora vanno a celebrare le esequie, vagliela a dire, specialmente in quel contesto o in quel momento, guarda che queste cose qui, chi è morto ne vuole manco sentire, succederebbe un macello, non ti ascolterebbero mai. A volte nei funerali si vede anche altro, quindi come dire, incursioni non autorizzate, canti popolari, cioè siccome al defunto gli piaceva quella certa canzone, la cantiamo come canto di comunione. Ma dico, ma stiamo scherzando? Ci siamo ridotti così. Ci siamo ridotti così, amici miei. Cioè, io parlo da parroco, non è che parlo per sentito dire queste cose che di cui sto parlando. Io le ho viste, ne ho testimonianza. Ahimè. Ecco, quindi. E pregate per i parroci perché è difficile interagire con questa, con questa realtà sociale che ci sta, no? Perché capite che nelle esequie la stragrande maggioranza delle persone in Italia, la stragrandissima maggioranza tuttora, celebrano ancora le esequie in chiesa. Ma questo è come per il battesimo e come per i funerali. Oggi ci si trova che stanno sopravvivendo dei retaggi di una civiltà cristiana che non c'è più, ma i retaggi sopravvivono, ma quello che si va a vivere in chiesa è completamente sfalsato. Pensate alla gente che ai funerali pia parte e si fa la comunione, perché è morto mio padre, faccio la comunione, è morta mia moglie, faccio la comunione, è morta mia madre, è morto mio figlio, che faccio, non faccio la comunione. E finalmente c'è chi affronta la morte cristianamente parlando, cioè si mette seduto e dice: benissimo, che cos'è la morte? Che è quello che faremo adesso? Che cos'è la morte? Cosa ci dice la rivelazione sulla morte? Perché moriamo? Da dove viene la morte? Cosa c'è dopo la morte? Come ci si prepara all'incontro con sorella morte corporale? Perché guardate, amici miei, che ogni giorno, San Paolo dice: io ogni giorno affronto la morte. Che significa? Significa che era in pericolo perché era perseguitato e che volevano ammazzarlo da un momento all'altro? Forse, ma potrebbe anche significare che ogni giorno lui si mortifica, la mortificazione, no? La mortificazione è tema che è strettamente connesso con la morte, perché mortificarsi, letteralmente in latino, vuol dire mortum facere, fare un morto. Capite? E chi è morto? So io, se mi mortifico. Mortificarsi è certamente una possibile interpretazione dell'affrontare quotidianamente la morte, ma ce n'è una terza. Affronto quotidianamente la morte, cioè io ogni giorno mi preparo a ben morire. Cioè, è quello che noi ogni sera dovremmo dire, non soltanto quando andiamo a un funerale. Bene, se il nostro Signore mi chiamasse oggi, come sto messo? Che sto in peccato mortale? C'ho peccati non riparati? C'ho penitenze non fatte? C'ho guai che ho combinato e ancora non ho messo riparo? Questo è il modo cristiano di affrontare la morte. La sera prima di andare a dormire facciamo l'esame di coscienza, facciamo l'atto di dolore. Chiediamo perdono dei peccati, perché la notte, quindi il termine della giornata terrena, sapete che la giornata terrena è figura della vita umana, no? Tant'è vero che la morte per noi cristiani è semplicemente un sonno prolungato. Nella notte dormiamo, cimitero, ecco perché poi parleremo etimologicamente, cumuterion in greco significa dormitorio. I cimiteri si sono inventati cristiani, con le catacombe, a cui non veniva passare manco per l'anticamera del cervello da andare a bruciare i morti. Quindi che te bruci i morti. Quello è il corpo di un figlio di Dio. È un corpo che ha contenuto fino al momento in cui non è diventato cadavere l'anima. È un corpo che è stato, che si è nutrito dell'Eucaristia, del corpo e del sangue di Cristo. È un corpo che è stato segnato dall'acqua battesimale, dagli oli santi, dall'unzione del crisma, dalle benedizioni. Ma che te bruci? E non è finito con la morte il corpo. Il corpo vedremo che affronta la morte e va in decomposizione per delle motivazioni ben precise. Ma quel corpo c'è il germe della risurrezione e va trattato con rispetto, anche dopo. Queste cose se le sono inventate i cristiani. Andate a vedere a proposito del contesto sociale, io sono parroco, quando vedo, quando mi porto i certificati di morte, come dire. Cimitero di destinazione, non Sermoneta, ma le località in cui ci stanno i forni crematori, capisco benissimo che quello è un morto che o ha lasciato detto oppure i familiari hanno deciso di andarlo a bruciare. E lo fanno con la massima nonchalance come se niente fosse. Questo sempre perché per il motivo, però l'avevo detto la volta scorsa, che ah, ma la Chiesa questa cosa adesso la consente, quindi che problema c'è? Comunque le persone. Qualcuno è intervenuto anche sul canale Telegram, poi io non mi va di mettere per iscritto che pensano che siccome una cosa è concessa, quella cosa sia volontà di Dio. E che se io non faccio una cosa che è concessa, vado addirittura contro, vado contro la Chiesa. Ma stiamo scherzando, stiamo. Ah, no, no, no, qua. La Chiesa autorizza la comunione in mano. Quindi se non fai la comunione in mano, sei disobbediente alla Chiesa. C'è gente che pensa questo. Ma dico, ma stai scherzando, stai? Sarebbe la stessa cosa che dico, ah, la Chiesa autorizza la cremazione adesso, perché è vero. Ah, quindi se io non mi faccio cremare sono disobbediente alla Chiesa, ma stiamo scherzando, stiamo. Ah, la Chiesa autorizza i preti a portare il clergime, quindi io che porto la veste d'alare sono disobbediente alla Chiesa. Ma stiamo scherzando, stiamo. Ma che razza di modi di ragionare che ci abbiamo in testa? Farò un tweet nei prossimi giorni, è troppo bello. Il grande Chesterton ha detto: quando noi entriamo in chiesa, ci togliamo il cappello, ma non ci togliamo il cervello. Oh! Il cappello si toglie in senso di segno di rispetto, e un sacco di gente non se lo toglie il cappello. Perché in chiesa, per chi non lo sapesse, gli uomini stanno a capo scoperto e le donne dovrebbero stare a capo coperto, tutte. Oggi ormai. Galateo ecclesiale, quindi molti uomini non se lo tolgono il cappello, ve lo dico io. Sapeste quante volte ho dovuto dire a qualcuno: si tolga il cappello per favore che stiamo in chiesa, perché non si passa neanche un'anticamera del cervello. Ma non il cervello, mi tolgo il cappello, ma non il cervello, amici. Allora, questa è puntata introduttoria sulla morte. La morte. Secondo l'insegnamento della Chiesa, è il momento cruciale della definitivo della vita di un uomo ed è anche il momento in cui il proprio destino assume la sua direzione irreversibile. Cominciamo subito a tenere presente una cosa. Al momento della morte, la condizione in cui sorella morte ti trova, cioè sta in grazia o non sta in grazia, perché questa è la grande differenza, solo questa. Si cristallizza irreversibilmente per l'eternità. Questo Se uno credesse una cosa di questo genere, irreversibilmente, ma chi non sta in grazia di Dio, chi non è in grazia di Dio, sapete che significa, eh? Cioè, Gesù nel Vangelo ha detto una cosa molto molto chiara, chi non è con me è contro di me. Che non raccoglie come disperde. Non ci sono tre modi. Vabbè, sto in grazia di Dio, non sto in grazia di Dio, non esageriamo. Un po' è un po', così è così. No. Stare in grazia di Dio non significa essere santi. Stare in grazia di Dio significa essere fedeli, essere salvati dal Signore. Quindi, se muoio in questo caso, dovrei raggiungere la salvezza. Non dovrei andare all'inferno, detto in altre parole. Oh, ma se io muoio senza stare in grazia di Dio, senza essermi pentito, guardate che sono guai sono, eh. Perché la morte cristallizza irreversibilmente lo stato in cui ti trovi. Se tu non stai in grazia di Dio, non è che dopo la morte ti vai a confessare, eh. Dici, allora, fermi, fermi. Adesso l'ho visto che c'è l'inferno. Momento, c'è l'inferno, attimo. Vado a confessare al volo. Non funziona così. Oh, sempre a livello di premesse, ci sono varie accezioni di morte. La morte nel linguaggio comune è semplicemente la cessazione del processo vitale umano. La morte biologica, che qui anche questo è un tema che si apre su tutta quanta la problematica del trapianto degli organi, no? Quando si ha la morte biologica? Quando cessa di battere il cuore? O quando cessa l'attività cerebrale. Guardate che la questione non è ancora chiusa ufficialmente dal punto di vista magisteriale. Giovanni Paolo II fece un intervento, ma ad un congresso scientifico, quindi un intervento ad un congresso scientifico non è un atto di magistero autentico, dove sembrava propendere per la morte cerebrale. Ma c'è un sacco di gente anche tra i fedeli e teologi che non è mica tanto sicuro, eh? Perché se si muore con la morte cerebrale, tu puoi espiantare quegli organi che richiedono un organismo ancora vivo, quindi un sangue che circola. Ma se si muore con la morte, con la cessazione del battito cardiaco, si possono espiantare quegli organi, per esempio, se non so male, che non sono esperto su queste cose qui, tipo le corne, che non fa niente se tu sei morto, ma non gli altri organi vitali. Capite dentro questa dinamica che cosa va a succedere? Quante cose che si intersecano? E come da un lato la Chiesa ha sempre il baluardo, difeso e custodito la Chiesa, la vita dal suo naturale concepimento fino alla sua morte naturale, contro ogni eutanasia, vedremo tante, tante altre cose, ma è contro l'accanimento terapeutico. Quindi la conservazione della vita biologica ad ogni costo non è nostro patrimonio. Perché con la morte non finisce tutto. Nessuno ti autorizza a decidere tu il momento della fine, né tu che sei il diretto interessato, né chi ti sta intorno, familiari o medici. Nessuno ti autorizza. Ma la morte non è la fine di tutto, per cui ti tengo in vita a condizioni pazzesche. Certo, questi giudizi si fanno in bioetica proporzionatamente al grado di evoluzione. Oggi la scienza medica sta a tassi elevati, per cui ciò che una volta si qualificava come un intervento straordinario, oggi è un intervento ordinario. D'accordo? Quindi su questo no, non ci sono dei limiti assoluti. Cioè, su queste cose ci sono dei paletti fermi che riguardano i principi. Dentro questi paletti fermi però c'è un'oscillazione che dipende evidentemente dall'evolversi delle cose. Non ci sono evidentemente alcuni confini che non si possono superare, ma altre cose su cui c'è da fare un discernimento attento sulla base delle circostanze. Ora, la morte invece in senso filosofico e teologico è la separazione dell'anima dal corpo, che è una cosa di per sé, come vedremo, completamente innaturale, che non sarebbe mai dovuta accadere. E guardate che c'è solo una creatura, a quanto pare, in cui questo non è mai accaduto, perché anche nostro Signore Gesù Cristo ha avuto la separazione dell'anima dal corpo, perché nostro Signore Gesù Cristo è morto veramente. San Tommaso d'Aquino, quando parla della morte di nostro Signore Gesù Cristo e la spiega, dice: la sua anima si è separata dal suo corpo. Certamente l'unione ipostatica è rimasta sia col corpo che con l'anima. Quindi la persona del Verbo rimaneva unita sia al cadavere di Gesù Cristo che alla sua anima. La sua anima è andata evidentemente unita con la persona divina del Verbo negli inferi a liberare le anime che stavano nel limbo dei Santi Padri, come la Chiesa tramanda nel Sabato Santo, ma Gesù Cristo è morto veramente, non per scherzo. Quindi per una quarantina di ore circa la sua anima è stata separata dal suo corpo. Il problema della presunta morte della Madonna. Adesso vedremo, questa è una puntata introduttoria, perché vedremo subito la prima cosa che la Chiesa ha sempre insegnato sulla scorta del racconto della Genesi e di quello che afferma il libro della Sapienza, è che la morte è una conseguenza del peccato. Solo il peccatore muore. Tu dici, ma Gesù Cristo non era peccatore, ma certo che Gesù Cristo non era peccatore, ma lui ha preso su di sé il peccato e la morte. È morto di morte violenta per espiare i nostri peccati e doveva morire. Ma se Gesù Cristo non fosse stato ucciso di morte violenta, state tranquilli che non poteva morire. Ora la Madonna non è morta di morte violenta, non l'hanno uccisa. Perché se la Madonna, Dio non voglia, perdonatemi, uno gli avesse dato una coltellata al cuore, la Madonna c'ha gli organi, c'aveva gli organi come noi. Capite? Se uno gli avesse fatto subire quello che ha subito suo figlio, sarebbe morta anche la Madonna, ma la Madonna non ha subito nessun tipo di violenza. Quindi è passata attraverso la morte, la sua santissima anima immacolata e impeccabile, e come si dice, che non ha peccato, non si può dire impeccata, ma che non ha commesso peccati. Passata attraverso la separazione? Io personalmente penso di no. Nel dogma dell'assunta questo problema non è stato risolto perché c'era e c'è tuttora il conflitto tra le opposte visioni. Ma per quanto mi riguarda non è assolutamente possibile. Quindi guardare Maria è proprio vedere il progetto che Dio ci aveva su ogni essere umano. Noi non saremmo dovuti morire, nessuno. La morte sarebbe stato un passaggio placido. Io non ho nessunissimo dubbio che la Madonna si è addormentata, tant'è vero che vicino al Cenacolo a Gerusalemme c'è una basilica chiamata della Dormizione di Maria. E dormizione non da intendere come la intendevano i primi cristiani, nel senso che la morte è un grande sonno. No, ma dormizione è da intendere in senso stretto, un sonno estatico, un'estasi in cui l'anima della Madonna, come in ogni estasi, adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco, ma se uno legge gli scritti di Santa Teresa, quando c'è un'estasi in senso stretto, quindi un rapimento, la parte superiore della nostra anima non è più con noi. I corpi diventano freddi, i sensi vengono persi, le reazioni, la reattività alle stimolazioni corporee sensibili a nulla. Ma quello non vuol dire morire. Quello vuol dire che la parte più santa, la parte non più santa, la parte più nobile, la parte superiore, la chiamano i maestri di spirito dell'anima, è rapita in Dio. Ma non è staccata completamente dal corpo, perché se si staccasse completamente sarebbe la morte corporale, la cessazione del battito cardiaco. Quel cuore immacolato ha mai cessato di pulsare, punto interrogativo, proprio pulsare, il movimento di sistole e di diastole. Io credo di no. Per le motivazioni che vedremo adesso le introduciamo, a proposito dell'origine della morte. Allora, la Sacra Scrittura e la liberazione affermano chiarissimamente che la morte è la conseguenza più seria e più grave del peccato. Allora, andiamo a leggere i testi perché a questo punto dobbiamo cedere la parola alla rivelazione. Abbiamo i seguenti testi biblici, non sono tutti, sono i principali, sulla morte corporale. Genesi 2,17. Genesi soprattutto 3, versetti 3, 4 e 19. Sapienza 1,13 e 2,24. Romani 5,12 e 6,23. Abbiamo ancora una decina di minuti. Ricominciamo a vedere. E poi piano piano li commenteremo. Tanto cominciamo a registrare alcuni dati. C'ho il micetto che piange. Mica starà a capire che stiamo parlando della morte. Non ti preoccupare, che per te non è un problema. Stai tranquillo. Va bene. In Genesi 17 si legge. Cominciamo dal 16. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo. Tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Ora, nelle catechesi sul peccato originale, questo è un brano cult, spiegavo che la formulazione grammaticale usata dall'ebraico, certamente dovrai morire, è detto. Tradotto in italiano, ma è quella forma, è quella costruzione particolare che è l'infinito più l'imperfetto. Mot tamut. Cioè, non è certamente morirai, cioè puoi proprio mettere la mano sul fuoco. Se fai quello che non devi fare, la morte sarà una cosa certa e inesorabile. Più avanti, 3, 3, 4, la tentazione del diavolo. Eva comincia a parlare col diavolo, dice, la donna dice, è vero che non dovete mangiare gli alberi? Dice, no, no, no, noi possiamo mangiare tutti quanti gli alberi nel giardino, ma, e qui andiamo al versetto 3, del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. Dio ha detto, non dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. E attenzione, il diavolo gli va a dire, ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, stessa forma verbale usata per dire, cioè, ho detto, guardate che morite sicuro al 100%. Io ti dico, lo mot dice, attenzione, mot abbiamo capito che è l'infinito del verbo morire, e poi c'è lo mot temutun. Che è l'imperfetto, la stessa forma verbale. Ma che siete matti, che sta dicendo? Ma non esiste proprio, ma quale morte? Ma che dici? Ma che sta a dire? Quindi un'affermazione perentoria, vedete? Vedete come il diavolo è proprio, è l'anti. Un'affermazione perentoria, muori sicuramente quell'altra, ma quando mai? Con la stessa identica forma verbale. Qui vi dovete fidare, però se conoscete l'ebraico o se conoscete qualcuno che parla l'ebraico, andate a verificare e a chiedere. Versetto 19. Bravo, bravo, tu da ascolta al diavolo. Il Signore dice, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritorno nella terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. Quindi la morte c'è come. E attenzione, questa è l'ultima conseguenza del peccato per l'uomo. Oh, poi abbiamo, attenzione, Sapienza 1,13 e 2,24. Li andiamo a vedere, abbiamo ancora un pochino di tempo. Sapienza 1.13, qui non abbiamo l'ebraico ma soltanto il greco della 70, perché come sapete il libro della Sapienza non appartiene al canone ebraico, non esiste un testo della Sapienza scritto in ebraico. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. O Theos, Thanaton, huc epoiese, non l'ha fatta lui. E non gode affatto, ude terpetai, e papoleia. La rovina, la perdizione, apoleia, sarebbe dei viventi. Quindi la morte non c'è per colpa di Dio. Guardate già le problematiche, dice, da dove viene la morte? Perché c'è la morte? Non per colpa di Dio. Dio non l'ha creata. Dio non crea orrori. E allora, come mai che c'è la morte? Moriamo tutti quanti. E aspetta un paio di capitoli e va alla fine del capitolo secondo, famoso versetto 24. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Ftono de diabolu thanatos eiselten eston cosmon. Ftonos è proprio l'invidia, eh? E ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Quindi, grande risposta al problema della morte, no? Andiamo al Nuovo Testamento. Romani 5, 12. Poi chiudiamo, con questi due testi, che li approfondiremo la prossima volta. Romani 5,12 dice: quindi, come a causa di un solo uomo, che è Adamo, il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Perché muori? Perché tu hai peccato in Adamo, perché il peccato di Adamo sopravvive in te ed è la causa remota di tutti quanti i peccati che fai. Quando vediamo qualcuno che è morto, pensiamo al peccato e a quanto è detestabile il peccato. Infine, Romani 6, 23. Il salario del peccato è la morte. Quindi la morte non soltanto conseguenza. La morte, il salario, capite? Cioè, sapete cos'è il salario, no? Io faccio un lavoro, e se faccio il lavoro, per giustizia stretta mi è dovuto il salario. Tant'è vero che defraudare la mercé agli operai è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio per quanto è grave. Ma il salario del peccato è la morte. Cioè, ciò che è dovuto per strettissima giustizia. Quindi ci fermiamo a questa prima grande rivelazione. Che cos'è la morte? La conseguenza del peccato. Il salario del peccato. Se l'uomo non avesse peccato, se noi non avessimo peccato, la morte non sarebbe esistita. Quindi cos'è sommamente da temere? La morte corporale, che è effetto, o la causa della morte, che è il peccato? Capite cosa significa prendere sul serio questo che ci dice la Sacra Scrittura? E quanto oggi, perdonatemi, sul serio non lo prende quasi nessuno? Bene, amici, appuntamento, se Dio vuole, alla prossima puntata. Che Dio vi benedica e la Santissima Vergine sempre vi protegga.